L'anno primo di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno ed ebbe visioni nella sua mente sul suo giaciglio. Egli scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele prese a dire: «Io guardavo nella mia visione durante la notte. Ecco, i quattro venti del cielo sconvolgevano il grande mare, e quattro grandi bestie salivano dal mare, diverse l'una dall'altra. La prima era come un leone, ed aveva ali di aquila. Mentre io guardavo, le furono strappate le ali, e fu sollevata da terra. Fu poi fatta stare sui piedi come un uomo, e le fu dato un cuore di uomo. Ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile ad un orso. Si alzava su di un lato, ed aveva tre costole nella sua bocca tra i denti. Le si diceva: su, mangia molta carne. Dopo di ciò, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco un'altra bestia come una pantera. Aveva quattro ali di uccello sul suo dorso. La bestia aveva quattro teste, e le fu dato il potere. Dopo di ciò, guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, terribile, spaventosa e straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro, mangiava, stritolava e il rimanente lo calpestava con i piedi. Essa era diversa da tutte le bestie precedenti ed aveva 10 corna. Io guardavo le corna. Ecco, un altro piccolo corno spuntò in mezzo ad esse e al suo posto furono divelte 3 delle corna precedenti. Ecco, in quel corno c'erano degli occhi come occhi di uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io guardavo, ed ecco, furono collocati troni e un antico di giorni si assise. La sua veste era bianca come neve e i capelli del suo capo candidi come lana. Il suo trono era come vampe di fuoco e le sue ruote come fuoco fiammeggiante. Un fiume di fuoco colava scorrendo dalla sua presenza. 1000 migliaia lo servivano e miriadi di miriadi stavano davanti a lui. Il tribunale sedette e i libri furono aperti. Io guardavo allora a causa dello strepito delle parole arroganti che il corno pronunziava e vidi che la bestia fu uccisa. Il suo corpo fu distrutto e fu gettato al calore del fuoco. Anche alle altre bestie fu tolto il potere, ma fu loro accordato un prolungamento di vita per un tempo e uno spazio di tempo. Io guardavo nelle visioni notturne. Ecco sulle nubi del cielo venire uno simile ad un figlio d'uomo. Arrivò fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare davanti a lui. A lui fu concesso potere, forza e dominio, e tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo servirono. Il suo potere è un potere eterno che non finirà, e il suo dominio è un dominio eterno che non sarà distrutto. Io, Daniele, sentì il mio spirito turbato a causa di ciò, e le visioni della mia mente mi conturbavano. Mi avvicinai ad uno di coloro che erano lì presenti e gli domandai il vero senso di tutto ciò. Egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione delle cose. Quelle bestie enormi, che sono 4 re che sorgeranno dalla terra, e i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e possederanno il regno per l'eternità e per l'eternità di eternità. Poi volli sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, spaventosa. I suoi denti erano di ferro e le sue unghie di bronzo. Mangiava, stritolava e il rimanente lo calpestava con i suoi piedi. Intorno alle 10 corna della sua testa, intorno all'altro che spuntava, davanti al quale ne erano caduti 3, e intorno a quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva parole insolenti, il cui aspetto era più maestoso di quello delle altre. Io guardavo e quel corno mosse guerra ai santi e li soggiogò, finché venne l'antico di giorni, e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, e venne il momento quando i santi possedettero il regno. Egli così disse: la quarta bestia, un quarto regno sarà sulla terra, differente da tutti i regni. Divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. E i 10 corni, da questo regno 10 re sorgeranno, e un altro sorgerà dopo di loro. Esso differirà dai precedenti e abbatterà tre re. Proferirà parole contro l'Altissimo e affliggerà i santi dell'Altissimo, e avrà in animo di mutare i tempi e il diritto. Essi saranno dati in suo potere per un tempo, tempi e mezzo tempo. Ma il giudizio sarà fatto e gli sarà tolto il potere. Sarà annientato e sarà distrutto sino alla fine. E il regno e il potere e la grandezza dei regni sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno. Tutti gli imperi lo serviranno e a lui obbediranno. Qui la fine del racconto. Io, Daniele, fui turbato fortemente nei miei pensieri. Il mio aspetto cambiò e custodii le cose nel mio cuore.